giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. È pesante il bilancio delle cancellazioni per lo sciopero dei ferrovieri USB scattato la scorsa notte. Decine treni saltati con forti disagi per i viaggiatori. Nella cronaca, forze dell'ordine al lavoro a Trieste per chiarire le dinamiche di una rissa tra giovanissimi che si è verificata intorno a mezzanotte in Piazza Verdi, protagonisti fra 30 e 40 ragazzi. In attesa del fronte che sta per attraversare la regione, facendo scattare un'allerta meteo arancione, proseguono le manifestazioni della domenica, tra queste la partecipatissima Pordenone Pedala. E nello sport parleremo anche di basket, dopo il sabato che ha visto in campo le tre maggiori formazioni regionali. 12 e quasi 16 minuti, dunque sono pesanti i disagi per i viaggiatori in conseguenza dello sciopero del personale dei treni gruppo FS Trenitalia, proclamato per oggi dalla USB. La protesta, cominciata alle 3 di oggi, si concluderà alle 2 della notte. L'adesione è alta, sono state cancellate decine di treni previsti in arrivo nella mattinata alla stazione centrale di Trieste, cancellato anche il treno in partenza per Venezia delle 10.58. E domani ci sarà lo sciopero del trasporto pubblico locale, proclamato a livello nazionale dalle sigle di CGL, CISL, UIL, CISAL e UGL, per lo stallo nella vertenza sul rinnovo del contratto di categoria. La protesta si svolgerà con modalità e orari diversi a seconda delle province, fatte salve naturalmente le fasce di garanzia. La cronaca, furiosa rissa la scorsa notte a Trieste in Piazza Verdi, circa 30-40 giovanissimi minori o al limite della maggiore età e sparpagliati in gruppetti intorno a mezzanotte hanno cominciato a picchiarsi. I coinvolti sarebbero sia italiani sia stranieri. I ragazzi, all'arrivo di polizia e carabinieri, allertati da numerose chiamate a 112, si sono dileguati senza lasciare agli agenti la possibilità di fermarli e di identificarli. Gli scontri non avrebbero avuto ripercussioni gravi, stando a quanto hanno verificato le forze dell'ordine, dal momento che non ci sono stati accessi al pronto soccorso. Inconsueta l'ampiezza del numero dei coinvolti, un fenomeno di questa portata, sottolinea la polizia, non avveniva da tempo. A Trieste è l'ultima giornata del festival di giornalismo Link. Tra gli ospiti di oggi anche il portavoce di UNICEF Italia Andrea Iacomini, che ha illustrato i progressi e le difficoltà della campagna di vaccinazione dei bambini a Gaza contro la poliomielite. Lo sentiamo al nostro microfono. Abbiamo superato i 180.000 bambini vaccinati, quindi abbiamo veramente superato le aspettative nella zona centrale del paese. Adesso dobbiamo dedicarci nella zona sud, dove abbiamo iniziato le vaccinazioni, e poi per passare alla zona nord. Contiamo veramente nelle prossime settimane ad praticamente ultimare il ciclo primo di vaccinazione, 640.000 bambini, riuscendo, speriamo, a coprire circa il 90% dei bambini che ne hanno bisogno, perché altrimenti la copertura vaccinale non avrà effetto. Successivamente, però, non dimentichiamolo, sarà fondamentale iniziare la seconda fase, cioè il richiamo a 4 settimane a fine settembre, e per farlo ci sarà bisogno comunque di un cessate il fuoco. Quindi se il cessate il fuoco è di fatto attenuto oggi, speriamo che il cessate il fuoco tenga anche a fine settembre. Questo è un impegno che noi chiediamo alle parti. Non bisogna dimenticare che la polio è un virus che si diffonde velocemente, quindi è fondamentale riuscire a vaccinare i bambini di Gaza, perché altrimenti si può diffondere nelle regioni vicine. Quindi più bambini vacciniamo, più questa vaccinazione andrà in porto, più saranno in salvo tutti i bambini dell'area. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi è la giornata mondiale della fisioterapia, una professione che in regione conta 132 iscritti all'ordine ogni 100.000 abitanti, un dato che è superiore al resto del paese. Tuttavia nei prossimi 10 anni ci saranno cali, con 500 fisioterapisti che andranno in pensione, mentre saranno 210 i nuovi laureati. La giornata sarà celebrata in regione con un incontro il prossimo 21 settembre per discutere di lombalgia e delle strategie per affrontarla, a Udine, nella sala Valduga della Camera di Commercio Udine Pordenone. Uno sguardo al tempo: abbiamo cielo da variabile a coperto sul Friuli Venezia Giulia, c'è un'allerta meteo di colore arancione della Protezione Civile per le precipitazioni intense e rischio idrogeologico legati al fronte che sta per attraversare la nostra regione. L'allerta scatterà alle 18 per chiudersi a mezzogiorno di domani. La fase più critica è prevista fra le 21 e le 6 di domattina. Vediamo ora Le temperature registrate alle 11, a Trieste 26 gradi, mare quasi calmo, con temperatura di 27 gradi, a Gorizia e a Pordenone 24,5, a Udine 26, nell'area montana a Tolmezzo 22,5, a Tarvisio 22, a Sappade sul Piancavallo 17, a Forni di Sopra 20 gradi, ancora in quota abbiamo sullo Zoncolan 14 gradi, sull'Ussari 15, sulla costa Lignano 27, a Grado 26, temperatura del mare in entrambe le località 26 gradi. E queste invece sono le previsioni. Oggi pomeriggio possibili dei rovesci sparsi con vento da sud-est moderato sui monti e sulla costa. In serata e soprattutto nella notte probabile peggioramento con piogge temporalesche da abbondanti a intense, localmente anche molto intense, e vento da sud-est in intensificazione. Nella notte verso lunedì soffierà poi libeccio da sostenuto a forte con possibili mareggiate. Domani fino alle prime ore del mattino saranno probabili piogge intense o localmente molto intense temporalesche e soffierà vento da sud-ovest da sostenuto a forte con possibili mareggiate sulla costa. In giornata cielo in prevalenza nuvoloso con probabili rovesci e temporali sparsi e intermittenti con piogge in genere moderate solo localmente abbondanti. Dal pomeriggio sera miglioramento con bora moderata su pianura e costa. Per l'arcidiocesi di Udine, la domenica del pellegrinaggio al santuario di Castelmonte, il primo sotto la guida dell'arcivescovo Riccardo Lamba, l'appuntamento per i partecipanti alle 14.30 a Carraria di Cividale. La messa, presieduta da Monsignor Lamba, è in programma alle 17. A Udine continua l'opera di rifacimento dei percorsi pedonali nei quartieri da parte dell'amministrazione comunale. Nel corso dell'ultima seduta la Giunta De Toni ha approvato per 7 vie i progetti di fattibilità tecnica ed economica per interventi che puntano ad aumentare la sicurezza dei pedoni e l'accessibilità, principalmente con il rifacimento dei marciapiedi. Nei prossimi mesi le strade interessate dai lavori saranno via Zardini e via Bariclaria, Emilia nella zona est della città, via Marsala e via Medici, via Zugliano a sud e sud-ovest e via Planis sia dal lato nord che da quello sud e via Aones a nord. Siamo alla pagina dello sport, partiamo dal basket. Tornerà in campo questa sera Jesolo, la Pallacanestro Trieste, che sarà impegnata nella finalina del Memorial Silvestrin contro Reggio Emilia. Ieri la prima sconfitta del precampionato per la squadra di Christian, superata dopo un supplementare dalla Reyer Venezia. Solo l'APU ha vinto tra le squadre regionali impegnate ieri sera. Qualche ingenuità nel finale, qualche errore gratuito, ma anche buone soluzioni per larga parte dell'incontro. A Jesolo Trieste incassa il supplementare alla prima sconfitta del prestagione contro l'ambiziosa Reyer Venezia, che a nastri di partenza parte come terza forza della Serie A. 81-84 dopo il 74 pari ai 40 minuti. I biancorossi, dopo un buon avvio, si sono un po' intestarditi, marchio di fabbrica, sulle soluzioni da tre punti, ben 37 nell'arco dell'incontro. In una giornata di polveri bagnate, fortunatamente anche dall'altra parte, la squadra ha comunque condotto per larghi tratti, facendo vedere buone cose sia con Yutov che con Ross e Valentine, finalmente convincenti anche se ancora imprecisi. Nel supplementare la squadra di Christian si trova sopra di 4 ma commette fallo antisportivo. Moretti in 5 secondi fa altrettanti punti, l'attacco si inceppa e Ruzier fallisce dalla lunetta i liberi di un altro overtime. Stasera alle 18 contro Reggio Emilia la finalina del torneo organizzato da Massimo Piubello. Finali ieri invece per le due regionali di A2. Cividale perde a Lignano nel trofeo Bortoluzzi contro Forlì 79-91. Gialloblu in difficoltà in difesa fin dalle prime battute con i romagnoli che dall'arco sono precisissimi sia con Dawson che con Parravicini e Cinciarini. La squadra di Pilastrini è costretta ad inseguire, poi Redivo e Marx trovano la chimica, ma complessivamente l'impressione è che la squadra fosse stanca. Molto bene il baby Ferrari, 14 punti e presenza a rimbalzo. Vittoria invece nella finalina del Memorial Paietta per l'APU Udine. Dopo la sconfitta di venerdì con Verona, passi in avanti contro Orzinuovi, allenata da Franco Ciani e senza quattro titolari, anche se gli stessi bianconeri si sono trovati senza lunghi per acciacchi vari. 80-68, 15 punti per Ambrosin. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel calcio ferma la Serie A per gli impegni delle nazionali, i riflettori sono puntati sulla Serie C, dove la Triestina è già alla ricerca di una conferma dopo due prestazioni contraddittorie. Allo Stadio Rocco gli alabardati affrontano alle 18.30 i veronesi del Caldiero Terme, una matricola. Inizia oggi il campionato di Serie D, le partite delle tre squadre regionali si giocano tutte alle 15, Brian Lignano contro Calvi Noale, Chions Real Calepina, Virtus Ciseran, Chierlins Muzzane. Sport e non solo, all'edizione numero 51 della Pordenone Pedala su un percorso di una quarantina di chilometri adatto a tutti, sentiamo com'è andata. I timori per il meteo riducono un po' la partecipazione alla Pordenone Pedala, ma alla fine il cosiddetto effetto Demetrio non delude. E anche a 9 anni dalla scomparsa del patron Moras, la pioggia risparmia la partenza della carovana dei pedalatori. Circa 3.500 partecipanti, che alla luce delle incertezze meteorologiche rappresentano comunque un buon numero, secondo il presidente Luigi Tomadini, e fra 150 e 180 i volontari che garantiscono il funzionamento della grande macchina organizzativa. 43 chilometri da percorrere in sella da Piazza Risorgimento per toccare di sfuggita Cordenonse e Zoppola e poi Cimpello di Fiume Veneto a Zano Decimo, Chionse e Pravisdomini, con la sosta Panigaia e il rientro al Parco Galvani per la pasta asciutta finale. Fra le peculiarità di quest'anno il transito al Consorzio Universitario e la tappa di Panigaia a celebrare i 140 anni dalla nascita della prima cassa rurale della provincia di Pordenone. Ma sono passati anche 100 anni dalla vittoria del Tour de France da parte di Ottavio Bottecchia, cui la kermesse rende omaggio con le magliette gialle. Il raduno inizia poco dopo le 8:30 sulle note della canzone scritta da Marco Anzovino per il mezzo secolo della pedalata. Un ultimo controllo alla pressione delle ruote della bici, un selfie prima della partenza, i saluti delle autorità affidati all'assessore Walter De Bortoli per il comune, le note della fanfara e alle 9:15 il via al serpentone che da Viale Dante punta dritto verso Borgo Meduna. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La storica società operaia di Pordenone segnala che la storica tombola che accompagna le feste della copatrona della città è annullata a causa dell'allerta del maltempo e quindi dall'11 fino al 30 di settembre si potrà avere il rimborso dei biglietti acquistati. E per quanto riguarda il maltempo invece tutto confermato per le altre manifestazioni, come per esempio a Cividale dove si svolge Sotto le stelle, e dopo il concerto di ieri sera di Reng & Neck la giornata è dedicata ai sapori locali. In Piazza Duomo ci sono gli espositori agroalimentari, mentre dalle 18 alle 20 è previsto Degusto, lo show dei sapori, degustazione guidata sui prodotti delle valli del Natisone. Mentre a Gorizia è in corso Let's Go Cosplay and Fun, iniziativa dedicata ai cosplay, ai videogiochi e ai fumetti, tra via Roma e Piazza Vittoria. Alle 16:45 ci sarà il momento clou, la gara di cosplay in cui i partecipanti si sfidano a chi imita meglio, con travestimenti e coreografie i personaggi che hanno scelto. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Federico Comar e Mauro Ciccarelli, a quella lavorato in redazione Daniela Sossi. 12:27, la prossima edizione, oggi che è domenica, alle 18:30. Grazie per la vostra attenzione e buona domenica ancora. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.